Siamo con Anna Maria Pasetti per il bilancio dell'annata cinematografica 2019 e per sapere i suoi cinque film preferiti tra quelli usciti in sala. Annina, ben trovata. Ben trovato Fede, ben trovati tutti gli ascoltatori, divisionari di Radio Auguri. Operosa, auguri, ovviamente che sia tutto molto meglio di come è stato, a prescindere. Prescindere. La parola magica è a prescindere. È stata dura quest'anno scegliere, perché ci sono tante opere. Io ho fatto per esempio un bilancio mito, no? Quando si fanno i famosi top 10, in realtà io ho fatto un top 12, no? Quindi 12 film. E ne ho anche lasciati fuori alcuni perché è davvero difficile da trovare. Ce ne sono state tante belle che sono già uscite nelle sale italiane 2019, altre che ho visto e che usciranno nel 2020. Io ho fatto una scelta purtroppo di sacrifici, ma come dire, con un criterio. Ok. E questo criterio mi ha portato a dire, vabbè, intanto per me il film dell'anno che è uscito nel 2019 è Parasite di Bong Joon-ho. È un film incredibile, un film cioè straordinario, l'ho visto due volte, la prima volta a Cannes, una roba tipo Madonna, ma cosa ho fatto questo? E poi devo dire, anche rivedendolo, un film con mille strati di lettura, che ha dentro un sacco di generi, che riesce a tenere una narrazione per 2 ore, mi sembra che duri 2 ore e 20. Senza mai perdere un colpo, è sicuramente un film politico senza essere un film militante, cioè è davvero ha tutte le carte in regola per lasciare il segno. E non credo ci siano rivali per lui dalla vittoria dell'Oscar come miglior film internazionale, si chiama, no, adesso. Per creare un Quindi. po' di suspense, visto che già ci hai sparato il tuo preferito, facciamo anche un po' un bilancio dell'annata? Come ti dicevo, ci sono stati degli ottimi film, ottime firme, grandi ritorni di maestri che hanno tirato fuori forse, sai, quel guizzo anche dall'età più avanzata che tu non ti aspetti. Infatti ci sono due maestri che sono nei miei cinque. Io non ho dato, cioè ho detto il film dell'anno per me, però non è che Parasite sia il migliore rispetto ad altri, è Ok. semplicemente quello che più mi ha sorpreso. E quel film che non ti aspetti, insomma, no? Sì, la sorpresa. Ecco, e che poi ha anche vinto il mio premio meritatissimo a Cannes. Allora, appunto, ci sono state delle sorprese, ma secondo me sono state più delle conferme di questi signori, anche dai 70, 80 anni, che ci hanno fatto vedere che il cinema è un'arte giovane, insomma. Io metto tra i miei cinque, infatti, i due testamenti, almeno io così li sento. Uno è quello di Scorsese, di Irishman, che secondo me è un grande requiem che ci fa vedere non solo una riunione dei suoi temi, dei suoi, della sua, come dire, forza cinematografica estrema, portata però quella che è la declinazione finale, e i suoi attori riuniti, cioè un film fiume, un film testamentario, definitivo del genere crime mafia movie, mettiamola così, ma L'ultima ora è sublime, direi. È un film imperfetto, però io credo che sia grande. Grande. Poi un altro grandissimo testamento per me è Jacques di Roman Polanski, che è quello, un enorme, immenso cineasta che io adoro e che ha fatto un film perfetto nel suo, Sì. tra l'altro un film che ha dentro miliardi di elementi autoreferenziali, ma non per questo è un film che si guarda addosso, anzi. Scritto, diretto, interpretato, insomma, c'ha tutti gli elementi. È un film che doveva vincere, secondo me, assolutamente il Leone d'Oro Venezia, usurpato dal film, l'opera che aveva l'attore più grande, che è Joker, e che non è tra i miei cinque, lo dico già, perché appunto devi scegliere, non si può vedere dentro tutto. E un altro film che metterei tra i cinque è una sorpresa, anche questo, è un film più di sceneggiatura e di interpretazioni che non di regia, ma io mi ha proprio preso il cuore, mi ha distrutto. Ed è Marriage Story, ovvero storia di matrimonio di Noah Baumbach, che è uscito nelle sale pochi giorni, poi è andato su Netflix, come d'altra parte Irishman, che è un film Netflix. Io questa è una delle considerazioni e riflessioni che Netflix non fa cose solamente per televisione, ma ormai stiamo aprendo il campo alla qualità vera, profonda, già da Roma di Cuarón, insomma, l'abbiamo visto. E quindi Baumbach non è magari il film migliore dell'anno, ma è il film suo migliore, ma è anche un manuale di sceneggiatura, come ti dicevo, di interpretazioni, un film libero per certi aspetti e da lui non me lo aspettavo così meraviglioso, ecco. Cioè, sono le due sorprese, vogliamo, Parasite e Baumbach, no? I due maestri. E poi il quinto è un film italiano. Anche lì non stiamo parlando di opere eccelse, capolavori, ma per me è un film che ha lasciato il segno, forse l'ho presentato tante volte, e sradica completamente il linguaggio, prende il linguaggio dei giovani e ne fa un uso completamente, come dire, consapevole, ed è Selfie di Agostino Ferrente, che è anche il nostro amico, Certo. che è un documentario, ma non è solo un documentario, insomma è veramente un lavoro importante, sia per quello che racconta, ma soprattutto per come lo racconta. Non so se è entrato nelle preferenze di alcuni dei miei colleghi, ma a me fa piacere comunque portarlo avanti. Quindi ecco, poi è chiaro che ci sono delle menzioni, difficile non trovarne quest'anno, una menzione a Woody Allen che ha fatto un film meraviglioso, poi guarda, vado anche un po' a braccio, Tarantino ha fatto un altro film strepitoso, però ecco, no, non si potevano mettere dentro tutti, capito? Film molto, quello, molto dolente, film di Tarantino, tenerissimo, con degli anti-eroi che ti viene voglia di prendere per mano e portar via, oddio, mi sembra di parlare come Benigni. Questo entusiasmo, sono tutti amici. E Benigni è bravissimo in Pinocchio, forse non è un caso. Però Pinocchio non è uno dei miei film preferiti dell'anno, anche se devo dire che è un bellissimo racconto, come Matteo Garrone là. Però non siamo a livelli che io l'anno scorso Dogman per me è stato uno dei film dell'anno. Insomma, ecco qua. Ecco qua. L'ho Non so se condividi alcune delle mie scelte. detto e lo ripeto, secondo me J'accuse è il capolavoro di Polanski. È difficile trovare, che lui ha fatto parecchi capolavori, Lo so, però l'ho trovato la sua maturità artistica. Sì. Poi guarda, io ho avuto un'esperienza molto forte perché appunto, come forse ci eravamo detti, sono stata a Cracovia la scorsa estate, dove ho visto i diari di Polanski da piccolo, dal ghetto di Cracovia, c'è tutto un percorso, insomma. Vabbè, dai. Allora vi auguro ancora buone feste. Annina, è sempre un Spero. piacere. Auguri e magari ci sentiamo nel corso dell'anno in trasmissione. Assolutamente, un abbraccio fortissimo. T'abbraccio, Buon ciao. 2020. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.